Ancora un record per la disoccupazione, il tasso di marzo sale fino al sfiora il 10%. 6 morti in un attentato a Kabul dopo la visita a sorpresa di Barack Obama. Un anno fa veniva ucciso Osama Bin Laden. Quirinale e Parlamento si salvano, esclusi dal decreto di revisione della spesa pubblica. Scontri e morti al Cairo, torna la tensione in Egitto. Serie A, questa sera la terz'ultima di campionato, primo match point per la Juventus. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Il tasso di disoccupazione è salito a marzo al 9,8%, ai massimi da gennaio 2004. Record anche in Europa e per la disoccupazione giovanile. Più di un giovane su tre non riesce a trovare lavoro. Quello registrato a marzo dall'Istat è un record assoluto per la disoccupazione giovanile. Nella fascia tra i 15 e i 24 anni il tasso di disoccupati è schizzato al 35,9%, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche mensili e trimestrali, che datano 1992. L'aumento rispetto allo scorso anno è del 7,7%. Non sale l'ottimismo se si amplia poi il discorso al tasso generale di disoccupazione, che è al 9,8%, in aumento di 0,2 punti percentuali in termini congiunturali e di 1,7 rispetto all'anno precedente. Nessun mezzo gaudio, ma sicuramente un male comune a mezza Europa, dove secondo il rapporto mensile diffuso da Eurostat sono 17.365.000 i disoccupati, con un tasso del 10,9%. Record per la Grecia, passata da gennaio 2011 a gennaio 2012 dal 14% al 21%. Controtendenza solo per il mercato del lavoro della Germania, che continua a resistere alla crisi, tanto che il tasso grezzo di disoccupazione ha registrato ad aprile un'ulteriore diminuzione al 7%, fra i giovani è al 7,9%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso torniamo a parlare della revisione della spesa pubblica. Emergono nuovi dettagli dalla bozza del governo che sta preparando il decreto. Ne sa di più Vincenzo Miglietta, in diretta da Roma. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, è così. Palazzo Chigi accelera dunque sui tagli alla spesa pubblica. Iniziano infatti a trapelare alcuni dettagli della bozza del decreto legge sulla spending review. Gli interventi saranno selettivi e non lineari. Il commissario, si legge nel provvedimento, è tenuto a rappresentare entro 15 giorni dalla nomina un cronoprogramma al Consiglio dei Ministri. Sono esclusi dall'applicazione del decreto legge la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Parlamento. Ed ancora, le amministrazioni pubbliche entro 24 mesi adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia. Quanto ai tagli agli sprechi e alle spese inutili, si prevede l'eliminazione delle spese di rappresentanze per convegni, ridimensionamento delle strutture dirigenziali esistenti, riduzione anche mediante accorpamento degli enti strumentali e vigilati e delle società pubbliche. Gli immobili di proprietà pubblica che eccedono i fabbisogni delle amministrazioni andranno restituiti all'Agenzia del Demanio. Entro 15 giorni Enrico Bondi dovrà presentare il piano per i tagli di sua competenza, pari a circa 2,1 miliardi di euro. La conferma arriva dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Adesso ci spostiamo in Afghanistan. Almeno 6 persone sono morte negli attentati che hanno colpito poche ore fa il centro di Kabul, nel principale attacco suicida avvenuto in un compound usato da dipendenti stranieri dell'Unione Europea e dell'ONU. È stata fatta saltare in aria un'autobomba. Il comando dell'ISAF ha fatto sapere che tutti gli assalitori sono stati uccisi. Gli attacchi sono stati eseguiti poco dopo l'arrivo a sorpresa di Barack Obama in Afghanistan. Fino a poche ore prima dell'atterraggio alla base militare di Bagram, tutti hanno smentito, anche la Casa Bianca. Ma i media afghani avevano fiutato l'arrivo del presidente, un viaggio a sorpresa nell'anniversario dell'uccisione di Osama Bin Laden. Perché, come dirà lo stesso presidente parlando alla nazione, battere Al-Qaeda è un obiettivo alla nostra portata. A Kabul, Obama mette via le incomprensioni che da sempre segnano i rapporti con il governo afghano e firma con il presidente Karzai un accordo strategico per quando, terminata la fase militare, sarà il momento di ricostruire il paese. Ma il culmine arriva con il discorso agli americani in diretta TV, quando a casa in America sono le 19:30, prime time. Abbiamo viaggiato un decennio attraverso le nubi scure della guerra e ora possiamo vedere all'orizzonte la luce di un nuovo giorno. So che molta gente è stanca, ma questa guerra non l'abbiamo scelta noi e ora dobbiamo finire il lavoro iniziato. 10 minuti in cui affiora anche la valenza elettorale del viaggio. Dopo un decennio di guerre all'estero è tempo di rilanciare l'America, un paese dove i nostri figli possono vivere senza paura e noi possiamo realizzare i loro sogni. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questo viaggio ecco il commento di Alberto Negri. Un anno dopo l'uccisione di Bin Laden in Pakistan, il presidente americano Obama aveva bisogno di dimostrare che dopo oltre 10 anni di guerra gli Stati Uniti portavano a casa, insieme agli obiettivi militari, un dividendo politico e strategico. L'obiettivo della sua visita a sorpresa era definire un accordo con Kabul in vista del prossimo vertice NATO a Chicago del 18 maggio e della campagna elettorale per le presidenziali. Gli americani dunque resteranno in Afghanistan anche dopo il ritiro delle truppe nel 2014 con la base di Bagram e le forze speciali. Oltre al messaggio all'opinione pubblica americana e agli alleati della NATO, ce n'è un altro per l'Iran e il Pakistan. L'Iran deve sapere che gli Stati Uniti resteranno ai suoi confini per contenere i piani nucleari e l'influenza di Teheran. Il Pakistan, alleato con l'atomica, sa che gli USA conterranno anche le ambizioni di Islamabad di influire sui destini dell'Afghanistan. Che cosa dà in cambio Obama? Il presidente americano ha ammesso per la prima volta in modo esplicito che Washington è in trattative con quella parte dei talebani disponibili a una via di uscita politica. Ha ammesso anche che l'obiettivo non è quello di costruire un Afghanistan a immagine dell'America o di sradicare ogni vestigio dei talebani, una frase che apre diverse interpretazioni su quello che sarà il paese domani. L'attentato kamikaze subito dopo la partenza di Obama dall'Afghanistan nel centro di Kabul dimostra che la strada per la pacificazione del paese è comunque ancora impervia e disseminata di ostacoli. Come dicevamo un anno fa, l'uccisione del nemico numero uno degli Stati Uniti, Osama Bin Laden, dopo 10 anni di caccia. Bin Laden era stato individuato e ucciso in un raid dei corpi speciali della Marina americana, i Navy SEALs, in una località di nome Abbottabad, in Pakistan. Il suo corpo era stato trasportato su una portaerei e quindi sepolto nel Mar Arabico settentrionale, perché nessuno ne avrebbe ospitato le spoglie, dissero gli americani. I pakistani non sapevano nulla, né di Bin Laden sul loro territorio, né del raid. Entrambe versioni ufficiali della primora, poi ci furono molte ritrattazioni. Nessuna perdita tra i Navy SEALs, 5 vittime tra i nemici, Osama Bin Laden e altri 4, tra cui si saprà poi uno dei suoi figli. Che fosse successo qualcosa di grosso, molto grosso, si diceva già da ore a Washington, ma la conferma finale la diede il presidente degli Stati Uniti quando annunciò urbi et orbi che Bin Laden era stato ucciso. Feci questo annuncio solo quando seppi che tutti i nostri erano al sicuro, i militari e perfino il cane, ricorderò poi Obama. Sì, perché c'era anche un cane di nome Cairo, l'80° Navy SEALs di Abbottabad. Non accendere la luce. Sarebbe stato questo l'ultimo ordine impartito da Bin Laden prima di morire, rivolto probabilmente a una delle mogli presenti. A febbraio il compound di Bin Laden è stato raso al suolo e qualche giorno fa le 3 mogli e gli 11 figli del leader di Al-Qaeda sono stati autorizzati a lasciare il Pakistan e tornare in Arabia Saudita, dove una folla di parenti di Bin Laden, che apparteneva a una delle più ricche dinastie del paese, li ha accolti. Ma se l'albero di Al-Qaeda è stato tagliato, le radici purtroppo sono ancora vive. La ricostruzione era di Laura Bettini. Ci spostiamo adesso al Cairo. Centinaia di persone si stanno recando in corteo da piazza Tahrir verso il Ministero della Difesa dopo le notizie degli scontri delle ultime ore, dove circa, almeno secondo le ultime notizie, 9 dimostranti sarebbero morti e oltre 100 feriti nel corso di una protesta organizzata da salafiti, giovani della rivoluzione del 25 gennaio e da altri attivisti politici. Da venerdì è in corso un sit-in contro la giunta militare al potere dopo le dimissioni di Mubarak. Da ieri, lo ricordiamo, il Parlamento si è autosospeso per protesta e la giunta militare ha promesso entro un paio di giorni un rimpasto di governo. Secondo le ultime notizie, l'esercito si sarebbe schierato e ha cercato di respingere i dimostranti. Dovrebbe partire domani la nave Enrica Lexi. I giudici indiani hanno infatti dato il via libera perché salpi nuovamente verso l'Italia la petroliera italiana. Dopo tanti rinvii, la decisione è arrivata. La Corte Suprema di Nuova Delhi ha autorizzato la partenza della petroliera Enrica Lexi, la nave italiana a bordo della quale svolgevano attività di vigilanza Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i 2 marò in carcere con l'accusa di aver ucciso 2 pescatori scambiati per pirati. Una decisione arrivata dopo 2 ore di animata discussione. Formalmente a presentare ricorso non è lo Stato italiano, ma l'armatore. Alla fine i giudici hanno disposto il rilascio della nave, dell'equipaggio, composto da 24 persone, e dei 4 marò dell'unità antipirateria che ancora sono a bordo. Ma hanno posto 3 condizioni, tra cui quella che il capitano e i responsabili della compagnia assicurino, con una dichiarazione scritta e una garanzia bancaria, la disponibilità della nave e dell'equipaggio nel caso in cui siano richieste nuove perizie nelle indagini. Assicurazione che lo Stato italiano ha dovuto garantire da parte sua per i 4 marò a bordo. La decisione della giustizia indiana sembra essere comunque un altro passo distensivo nei confronti dell'Italia e lascia ben sperare per la sorte dei 2 detenuti. L'8 maggio ci sarà un'altra udienza nel processo che riguarda proprio il diritto internazionale per ottenere la libertà dei marò italiani. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso torniamo in Italia con la pagina politica. La pausa del 1° maggio sembra aver sopito solo in minima parte le polemiche fra il governo e la maggioranza che lo sostiene. Al Popolo delle Libertà non sono andate giù le parole di Monti, che ha bacchettato il governo Berlusconi per aver cancellato l'ICI. Anche oggi Cicchitto parla di faziosità da parte del Premier e di inammissibile fraintendimento voluto da parte sua riguardo alla proposta Alfano, quella di consentire alle imprese di scalare dalle tasse i crediti maturati con lo Stato. Ad irritare PDL e Partito Democratico poi ci sono anche le nomine dei tecnici decise lunedì dal Consiglio dei Ministri. Confesso di non averne capito il senso, commenta oggi il responsabile economico del PD Fassina. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto la Lega è in subbuglio per l'annuncio a sorpresa di ieri di Umberto Bossi pronto a ricandidarsi come segretario. Doveva essere l'inizio della nuova era del Carroccio, il giorno della ripartenza, così aveva detto Roberto Maroni dal palco. Sotto il palco, però, l'annuncio di Umberto Bossi, pronto a ricandidarsi come segretario, ha sparigliato le carte in vista del congresso della Lega in programma a giugno. Il congresso che avrebbe dovuto consacrare la nuova leadership dell'ex ministro. Le parole del senatur a Lega Unita Dei hanno mandato in tilt lo Stato Maggiore maroniano, con l'ex ministro in silenzio da quel momento, fra i suoi un malcelato imbarazzo. Nessun accenno alla possibile ricandidatura nel comunicato ufficiale diffuso in serata dal Carroccio sul raduno di Zanica. Se si ricandiderà, lo vedremo al congresso, viene fatto notare a microfoni spenti. Il sindaco di Varese, Attilio Fontana, maroniano doc, non ha dubbi: Roberto Maroni sarà il candidato unico alla segreteria. Penso che non ci siano problemi a che il candidato sia Maroni, c'è ancora tempo, vediamo nel frattempo come evolve la situazione e quali sono i desiderata dell'onorevole Bossi. C'è chi dice che l'annuncio di Bossi a pochi giorni dalle amministrative potrebbe aver danneggiato la Lega, non così pronta evidentemente a voltare pagina. Matteo Salvini lo esclude. Io in giro incontro gente che chiede di risolvere i problemi di Monza, di Como, di Genova o di Verona. La politica nazionale è lontana e ci interessa di più parlare di IMU, di strade e di scuole che non di segreterie politiche. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiudiamo con la cronaca. Un ultrà del Pescara, Davide Rigante, è stato ucciso in una rissa con alcuni Rom. Il motivo per la polizia è nella rivalità tra una parte della tifoseria e alcuni nomadi. Sentiamo il servizio. È stato un regolamento di conti ad uccidere l'ultrà 24enne di Pescara, Domenico Rigante, probabilmente scambiato per suo fratello gemello Antonio dai 6 Rom che stavano inseguendo quest'ultimo. La sera prima, tra Antonio Rigante e i nomadi, erano volate botte e minacce. Ieri Antonio ha incontrato di nuovo i Rom, che hanno iniziato ad inseguirlo sparandogli contro alcuni colpi. Fatta irruzione nell'appartamento dove Antonio Rigante si era rifugiato, gli inseguitori vi hanno trovato il fratello Domenico e gli hanno sparato ferendolo a un fianco. L'uomo è poi morto all'ospedale civile Santo Spirito. Secondo la questura, i motivi di tanta violenza sono da cercare negli attriti tra il gruppo di ultras cui appartenevano i Rigante e alcuni nomadi, vecchie ruggini estranee all'ambiente calcistico. Francesco Riccardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Queste le notizie principali di GR24, ancora un record per la disoccupazione, il tasso a marzo sfiora il 10%. 6 morti in un attacco a Kabul dopo la visita sorpresa di Barack Obama, un anno fa veniva ucciso Osama Bin Laden. Quirinale e Parlamento si salvano esclusi dal decreto di revisione della spesa pubblica. Scontri e morti al Cairo, torna la tensione in Egitto per la Serie A, questa sera la terz'ultima di campionato, primo match point per la Juventus. Adesso parliamo della relazione di fine mandato del presidente dell'autorità per le comunicazioni. Ci colleghiamo in diretta da Roma, Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, un bilancio con poche luci e molte ombre. Il presidente uscente dell'Authority denuncia il ritardo del nostro paese nello sviluppo della banda larga, che costa tra l'1 e l'1,5% del PIL. Senza infrastrutture a banda ultra larga, dice Calabro, i sistemi economici avanzati finiscono su binari morti. Secondo l'AGCOM c'è ancora scarsa consapevolezza delle potenzialità globali delle tecnologie della società dell'informazione, mentre esse possono dare una spallata a un sistema imballato, essendo fattore chiave per la crescita economica. Italia è indietro anche nelle esportazioni, solo il 4% delle piccole e medie imprese vende online, mentre la media europea a 27 del 12%. Calabro ha poi sottolineato il prepotente sviluppo della telefonia cellulare, con una massiccia diffusione degli smartphone che rappresentano ormai circa il 30% del totale dei telefonini, mentre ha auspicato un aggiornamento della legge sulla par condicio, necessario nell'era di internet, così come sarebbe necessaria una riforma della RAI. Ma le nostre risposte su questo allamentare Calabro sono rimaste inascoltate. Sulla RAI ha detto: solo i morti vedranno la fine del dibattito. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Adesso parliamo di uno studio di Monitor Regione, dell'istituto di ricerca Data Monitor, che ha fatto la top 10 tra i presidenti di regione. Il preferito è quello del Veneto, Zaia, con il 59% di consensi, seguito da quello della Toscana, Rossi, e da Vasco Errani dell'Emilia Romagna. Chiude la top 10 il presidente della Lombardia, Formigoni, che si ferma al 51%. Anna Marino ha intervistato il primo e l'ultimo di questa top 10 in Iniziamo da Zaia. Sono assolutamente soddisfatto, poi le dirò che i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Mi dà tanta soddisfazione, ma anche tanto senso di responsabilità. Penso sia stata premiata l'attività amministrativa mia e della mia squadra, e in particolar modo il sottoscritto, da quando il presidente si è concentrato solo sui fatti della regione, magari rinunciando a comparsate televisive e puntando solo a occuparsi della disoccupazione giovanile e dei grandi temi che abbiamo qui oggi da affrontare in Veneto. Noi abbiamo bloccato con delle leggi a 2 il numero dei mandati del presidente, abbiamo ridotto i consiglieri, abbiamo eliminato i vitalizi e quindi le pensioni, abbiamo ovviamente fatto quello che molti altri non hanno fatto, ridotto gli stipendi, ed infine ricordiamolo, abbiamo fatto una nuova legge elettorale. In Veneto alle prossime elezioni si voterà con una legge che non ha più listini bloccati e quindi con candidati che comunque verrebbero eletti. E cosa pensa appunto dei fatti nazionali invece del partito della Lega? Ma sono convinto che comunque si dovrà fare chiarezza e pulizia, che è quella che stiamo facendo. Forse deve essere riconosciuto al mio partito il fatto di aver fatto cose che nella storia nei partiti non si sono mai fatte, e direi che i risultati sono visibili, sono sotto gli occhi di tutti. Noi non perdiamo neanche un secondo per far pulizia. Questa classifica è la dimostrazione perfetta di quanto vado ripetendo da tempo, e cioè che contro di me è in atto una campagna infondata, ma giornalisticamente feroce, mediaticamente feroce, politicamente feroce, tant'è vero che nelle posizioni alte della classifica figurano dei colleghi che sono sotto indagine della magistratura, che sono rinviati a giudizio anche con pesanti accuse, va di bene, colleghi dei quali ho la massima stima, che sono convinto che siano estranei ai fatti, ma poiché contro di loro non c'è stato questo accanimento mediatico, perché fanno parte dell'altro schieramento, dello schieramento che è buono per definire, e quindi i cittadini possono valutare la loro azione di governo. Nei confronti miei e della mia giunta, la magistratura non ha nulla da obiettare, anzi tutte le nostre azioni di giunta sono considerate corrette, perché sono corrette. Quindi non è un giudizio del suo operato, ma più che altro diciamo un'impressione. Ci sono ancora una maggioranza di cittadini, 51,7% se non sbaglio, che nonostante la forsennata campagna mediatica e politica continuano ad aver fiducia nel presidente Formigoni e nella nostra giunta. Che cosa intendete fare per contrastare questa onda di commenti negativi che la colpisce? Io mi auguro che la smettano di attaccarmi. È chiaro che dà fastidio l'azione del mio governo. Ho già detto che comunque chiamerò in giudizio attraverso i miei avvocati tutti coloro che in questi tempi hanno rovesciato accuse insussistenti contro di me e contro l'operato della mia giunta. Dalla politica italiana a quella francese, alle 21 di questa sera, l'atteso faccia a faccia in TV tra i due candidati alla presidenza francese, Sarkozy e Hollande. Ieri ha dato la sua indicazione il terzo incomodo, Marine Le Pen, che ha detto che voterà scheda bianca al secondo turno. Quanto influirà? Lo chiediamo al corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore, Marco Mussanè. Probabilmente non moltissimo. Gli elettori del Fronte Nazionale presumibilmente continueranno a dividersi intorno al 50%, tra il 50 e il 60%, comunque verso Sarkozy, in particolare per quanto riguarda le posizioni sul contenimento dell'immigrazione, per un 20% circa comunque verso Hollande, esprimendo in questo modo un voto anti-Sarkozy, e per un 20% circa probabilmente andranno ad aggiungersi all'astensione del secondo turno, che peraltro è sempre tradizionalmente in crescita rispetto a quella del primo. Da Parigi a Londra, dove si discute ancora dello scandalo che ha colpito News Corporation, l'impero di Murdoch. Inadeguato a gestire la sua impresa, e questa è l'opinione controversa della Commissione Cultura della Camera, che ha invitato di fatto Rupert Murdoch a farsi da parte, incoraggiando gli altri azionisti ad agire per esautorarlo. Secondo i deputati, con la sola eccezione dei conservatori critici, ma non fino al punto da sentenziare un verdetto finale per l'editore di origine australiana, Rupert Murdoch avrebbe chiuso gli occhi dinanzi allo scandalo delle intercettazioni telefoniche operate dal News of the World. Il verdetto dei deputati complica le cose sul fronte più delicato della battaglia che Murdoch giocano in Inghilterra, il futuro della pay TV Sky B, che l'autority delle comunicazioni sta vagliando. Ofcom deve decidere se Sky B possa mantenere le frequenze che le sono state assegnate o se non abbia più le caratteristiche adeguate di correttezza che erano state riconosciute all'emittente tempo fa. Se così dovesse essere, la prospettiva di una cessione di Sky B per il gruppo Murdoch diverrebbe una realtà. Un gruppo che ieri ha fatto numeri da record, sfondando in 9 mesi 5 miliardi di sterline di fatturato solo per quello che riguarda i numeri di Sky B. Scenari di là da venire per ora, ma da ieri incredibilmente più vicini. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Chiudiamo con il calcio. In Serie A sono in programma le partite della terz'ultima giornata. La Juventus ospita il Lecce, il Milan l'Atalanta. C'è chi dice che ci sia aria di scudetto. E così lo chiediamo a Dario Ceccarelli. Buongiorno Dario. Sì, buongiorno Enrico. Beh, diciamo che si sente qualcosa nell'aria, una brezzolina che cresce. Se la Juventus batte il Lecce, cosa non impossibile visto che gioca in casa, il Milan viene sconfitto dall'Atalanta San Siro, allora lo scudetto sarebbe matematicamente in cassaforte bianconeri. Ma è una probabilità remota, perché il Milan finora non ha dato segni di mollare, anzi l'allenatore Allegri, che cerca la riconferma, continua con la sua polemica sul gol negati a Muntari, proprio per innervosire Conte e i suoi giocatori. E Conte risponde oppure sta ma zitto. Conte tiene un profilo basso, molto umile, paragonando la sua Juventus al Verona del 1985, cioè una provinciale che vinse lo scudetto. Ad Allegri Conte risponde che questa polemica non gli interessa e che così si rischia di finire nella paranoia. Tra l'altro dice: ho imparato una cosa, prima si vince e poi si parla. E certo. Senti, il Lecce, visto che la Juve gioca contro il Lecce, può impensierire i bianconeri oppure no? Ma qui dico una cosa che molti bianconeri si toccheranno, diciamo, da quelle parti. Nell'85-86 il Lecce, già retrocesso, rovinò il sogno tricolore della Roma, ma fu una storia incredibile. Conte è molto attento a questi particolari e tiene in sua infibrillazione proprio perché il clima di festa non prevalga. Poi uno potrebbe dire: quella era la Roma, esatto, non la Juve. Tutto poi un altro secolo. Mondo, cambiati il mondo, esatto. Senti, chiudiamo con uno sguardo a ieri, perché ci sono stati due anticipi. Il più importante è quello del Napoli, che ha battuto il Palermo. Hai detto bene, una vittoria importante che lancia la volata per il posto in Champions. Bisognerà vedere come rispondono l'Inter, che oggi va a Parma, l'Udinese, che gioca a Cesena, e la Lazio, che ospita il Siena. L'Inter sta attraversando un buon periodo con stramaccioni e la ruota ha cominciato a girare dalla parte giusta, tutto le riesce facile, anche le cose che prima al contrario andavano storte. L'Udinese, dopo la vittoria con la Lazio, è ben messa. Chi sta peggio è la Lazio, che dopo la stangata per la rissa proprio nel finale con l'Udinese si trova a rincorrere senza Marchetti e Dias, quindi in salita. Senti, prima di salutarci, un breve sguardo al Mugello, dove anche oggi la Ferrari prova. Oggi non piove, quindi forse le cose vanno meglio. Ma ieri è stata un po' fantoziana, sì. Temporale, la nuvola proprio sul bolide, sul cavallino. Tra l'altro si è fermato 15 giri un po' così, un po' miserini. Tra l'altro così abbiamo fatto anche una battuta sul grafio dicendo che... Visto che mi è piaciuto, allora ripetiamolo. Sì, che la macchina di Alonso è andata più forte del baracchino del gelataio. Diciamo che il baracchino del gelataio ieri ha fatto sciopero perché pioveva. Quindi non è la giornata di gelati. Comunque vedremo oggi se dalle prove del Mugello insomma arriverà qualche risultato positivo per la Ferrari. Grazie a Dario Ceccarelli, buon lavoro, ciao, a presto. Grazie a te. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Paglierini. Grazie anche a Fabio Cantadori che si è occupato della parte tecnica. Il GR torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.